In città i mezzi pubblici puzzano terribilmente di sudore. Sai quanto ci ho messo a capirlo? L'ho capito subito. E vuoi sapere di chi è la colpa? Degli stranieri. Della loro maledetta cucina etnica, piena di spezie. Dammi retta, ragazzo. Non c'è limite al peggio. Ma sai qual è il problema? Non ti puoi lamentare di una cosa del genere che subito qualche stronzo è pronto a puntarti il dito contro dandoti del razzista. Cristo santo, mi sto solamente lamentando della loro cucina che sa di sudore, non mi sto lagnando della loro fottuta presenza sul mio stesso suolo. Il fatto è, caro, che le persone sono un dito al culo. Tu sei ancora giovane, ma lo imparerai presto, e quando lo avrai imparato mi darai ragione, solo che allora sarà troppo tardi. Dammi retta, fidati solo di te stesso se vuoi sopravvivere in questo inferno. Dimmi, tu sei uno di quelli che giudica il comportamento degli altri. Tu hai la faccia del moralista, hai il volto di uno che vuole insegnare agli altri che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Beh, la vuoi sapere la verità? Ci sono brutte notizie per quegli stronzi che pensano di stare sempre dalla parte della ragione. L'universo non giudica, l'universo non è di pietro, l'universo non è un cazzo di giudice pronto a farti la paternità. Per lui vittima e assassino sono la stessa cosa, la stessa feccia e la medesima divinità, a seconda di come lo guardi. Cos'è? Ci sei rimasto male? Ah, tu veramente pensavi di meritarti il paradiso solo perché ti occupi dei bambini o vai a pulire il culo agli anziani o regali i corsi di lingua agli stranieri o non tradisci il fidanzato, la fidanzata o i tuoi amichetti del cazzo? Tu pensi troppo e a pensare ci si logora inutilmente. Non bisogna pensare, bisogna agire. Esiste una morale assoluta? Assolutamente no. Te l'ho detto prima, l'universo non giudica. E vuoi sapere la verità? Ora che lo so mi sento molto meglio. Mi sono tolto dei macigni della coscienza. Ora so di poter fare ciò che voglio senza curarmi del giudizio di nessuno. Non conta un cazzo nessuno, Michele, conti solo tu, contano solo i tuoi desideri. Vuoi palpeggiare un ragazzino, vuoi picchiare una suora, prego, coraggio, accomodati. Vuoi andare a puttane, puoi fuggire senza pagarle, prego, accomodati. Vuoi allevare canarini per poi soffocarli nel lavandino, fallo. Nessuno dovrà venire a romperti i coglioni. E se proprio ci tieni a fare qualcosa per il prossimo, farlo perché fa sentir bene te, non perché ti senti obbligato a farlo. Da bambino ti insegnano a distinguere il comportamento giusto da quello sbagliato. Tutte fesserie. L'unico giudice di te stesso sei tu. Ti devi amare, anzi, ti devi adorare. Devi considerarti Dio sceso sulla terra per blagarsela a fondo e godere dei piaceri della carne. L'umiltà è una filastrocca e per i gonzi, è una roba per farli sentire in colpa. L'unica via di fuga risiede nell'ambizione. Se vorrai fare questo mestiere, dovrai dimenticarti degli amici e stare in guardia. E soprattutto non dovrai innamorarti mai. Il teatro prevede una semplice regola: non offrire mai il fianco ai tuoi carnefici che ti aspettano alla porta mascherati da sorriso. Non avrai nessun amico in questa vita, a parte me, naturalmente. E questo io l'ho capito sulla mia pelle quando ho iniziato a fare questo mestiere 30 anni fa. Ma 30 anni fa noi eravamo tutti socialisti.